Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Fuoco e vento provengono dal cielo, dagli dèi del cielo. Ma è Crom il tuo dio, Crom che vive nella terra. Un tempo i giganti vivevano nella terra, Conan, e nell'oscurità del caos mistificarono Crom e gli sottrassero il mistero dell'acciaio. Crom si adirò e la terra tremò. E fuoco e vento abbatterono quei giganti e scagliarono i loro corpi nelle acque. Ma nel loro furore, gli dèi si dimenticarono del segreto dell'acciaio e lo lasciarono sul campo di battaglia. E noi che lo trovammo, non siamo che uomini. Né dèi, né giganti. Solo uomini. E il segreto dell'acciaio ha sempre portato con sé un mistero. Devi impararne il valore, Conan. Devi impararne la disciplina. Perché di nessuno al mondo ti puoi fidare. Né uomini, né donne, né bestie. Di questo solo ti puoi fidare. La Locanda della Tormenta presenta Conan, il Palazzo dei Morti, di Robert Howard. La gola era buia, sebbene il sole calante avesse lasciato strisce arancioni, gialle e verdi lungo l'orizzonte occidentale. Sullo sfondo di questa banda colorata, un occhio acuto avrebbe ancora potuto individuare il nero profilo delle cupole e delle guglie di Shadisar la Perversa, città di donne dai capelli bruni e di misteriose torri colme di ragni, capitale della Zamora. Con la fine del crepuscolo, le prime stelle apparvero nel cielo. Come se stessero rispondendo a un segnale, molte luci si accesero sulle cupole e le guglie lontane. Ma mentre il chiarore delle stelle era pallido ed evanescente, quello che proveniva dalle finestre di Shadisar era ambrato e fosco e diffondeva come un presentimento di azioni abominevoli. La gola era silenziosa e risuonava soltanto del frinire degli insetti notturni. Ma poi il silenzio fu rotto dal suono di uomini in cammino. Risaliva la gola una squadra di soldati zamorani, 5 uomini che portavano lisce elmetti d'acciaio e giubbe di cuoio, rinforzate da borchie di bronzo, capeggiati da un ufficiale rivestito di una lucida corazza bronzea e di un elmo recante una cresta di crini di cavallo. Le gambe dei soldati, appesantite dal bronzo, frusciavano nell'erba alta e lussureggiante che ricopriva il suolo. Le armature cigolavano e le armi risuonavano e tintinnavano. 3 di loro portavano degli archi e gli altri 2 delle picche. Alla cintura avevano delle corte spade e sulla schiena degli scudi. L'ufficiale era armato di una lunga spada e di uno stiletto. Uno dei soldati mormorò: «Se prendiamo vivo questo Conan, che cosa ne faranno di lui?» «Lo manderanno a Yesud per cibare il dio ragno, te lo garantisco», disse un altro. «Il problema è solo se saremo ancora vivi per ritirare la taglia che ci hanno promesso». «Hai forse paura di lui?» disse un terzo. «Io?» rispose il secondo sbuffando di disprezzo. «Io non ho paura di nulla, neppure della morte. Il problema è solo la morte di chi? Questo ladro non è un uomo civile, ma un barbaro selvaggio, con la forza di 10 uomini. Per questo sono andato dal magistrato per fare testamento. È consolante sapere che almeno gli eredi otterranno la taglia, disse un altro. Peccato non averci pensato anch'io. Oh, disse il primo che aveva parlato. Troveranno qualche scusa per fregarci la taglia, anche se prenderemo il colpevole. Il prefetto in persona l'ha promessa, disse un altro. I ricchi mercanti e i nobili che sono stati derubati da Conan hanno messo come premio una grossa somma. Ho visto il denaro, una borsa così piena d'oro che un uomo riesce a malapena a sollevarla. Dopo tutta questa esibizione pubblica, non oseranno rimangiarsi la parola. Ma supponi che non riusciamo a prenderlo, disse il secondo soldato. Si è detto qualcosa sul fatto di pagare con le nostre teste. L'uomo alzò la voce. Capitano Nistor, che cosa hanno detto a proposito delle nostre teste? Tappatevi la bocca, maledetti! Esplose irosamente l'ufficiale. Fate un chiasso che si sentirebbe perfino da Regiun. Se Conan è entro la distanza di un miglio da noi, è già avvertito della vostra presenza ormai. Finitela con le chiacchiere e cercate di muovervi più silenziosamente. L'uomo era un uomo dalle spalle ampie, di media statura e di corporatura vigorosa. La luce del giorno avrebbe mostrato che i suoi occhi erano grigi e i capelli castani, striati anch'essi di grigio. Era un gunderiano della provincia più settentrionale di Aquilonia, a 1500 miglia a ovest. La sua missione, prendere Conan vivo o morto, lo turbava. Il prefetto lo aveva avvertito che se avesse fallito avrebbe dovuto aspettarsi una severa punizione. Forse avrebbe pagato perfino con la testa. Il re in persona aveva ordinato che il fuorilegge fosse preso e il re di Zamora andava per le spicce con i sudditi che fallivano le loro missioni. Una spiata dei bassi fondi aveva rivelato che Conan era stato visto dirigersi alla gola all'alba di quello stesso giorno e il comandante di Nistor si era affrettato a farlo partire con gli uomini che avevano trovato nella caserma. Nistor non si fidava dei soldati che venivano dietro di lui. Li considerava degli spacconi che sarebbero fuggiti davanti al pericolo, lasciandolo solo ad affrontare il barbaro. E sebbene il gunderiano fosse coraggioso, non si illudeva sulle sue possibilità di vittoria contro quel feroce, gigantesco, giovane selvaggio. L'armatura non gli avrebbe fornito che un esile margine di vantaggio. A occidente lo splendore del cielo impallidiva e l'oscurità piombò nella gola. Anche le pareti cominciarono a farsi più anguste, scoscese e rocciose. Dietro Nistor, gli uomini ricominciarono a mormorare. Non mi piace. Questa strada porta alle rovine di Larsha la maledetta, dove i fantasmi degli antichi sono in agguato per divorare chi passa. In quella città, dicono, c'è il palazzo dei morti. Zitto! Tuonò Nistor volgendo il capo. Se... In quell'istante, l'ufficiale inciampò in una fune di cuoio grezzo stesa attraverso il sentiero e cadde malamente nell'erba. Ci fu il colpo secco di un bastone che cadeva sotto il peso e la fune ricadde al suolo lasca. Con un tremendo boato, un mucchio di rocce e di detriti precipitò dal declivio a sinistra. Mentre Nistor tentava di rimettersi in piedi, una pietra grossa come la testa di un uomo lo colpì sul corsaletto e lo ributtò di nuovo a terra. Un'altra gli portò via l'elmo, mentre pietre più piccole gli colpivano le membra. Dietro di lui risuonarono numerose grida e il suono della pietra contro il metallo. Poi cadde il silenzio. Nistor si rimise barcollando in piedi, sputò la polvere che aveva nei polmoni e si voltò a vedere che cosa era accaduto. A pochi passi da lui, una frana bloccava la gola da parete a parete. Avvicinatosi, scorse una mano e un piede umani che spuntavano dalle pietre. Chiamò, ma non ricevette risposta. Toccò le membra e le trovò senza vita. La frana, messa in moto dallo strattone che aveva dato alla fune, aveva annientato l'intera squadra. Nistor fletté le articolazioni per verificare se fosse ferito. ma sembrava che nessun osso fosse rotto, sebbene avesse la corazza ammaccata e numerose abrasioni sul corpo. Bruciante di collera, cercò l'elmo e riprese l'inseguimento da solo. Non aver catturato il ladro sarebbe già stato abbastanza brutto, ma confessare di aver perduto gli uomini gli sarebbe costato una morte lenta e dolorosa. La sua unica possibilità consisteva nel riportare indietro Conan, o almeno la sua testa. Con la spada in pugno, Nistor zoppicò lungo il sentiero tortuoso e interminabile della gola. Una luce davanti a lui nel cielo gli mostrò che la luna, già nella sua prima fase calante, stava sorgendo. Aguzzò gli occhi, aspettandosi di vedersi saltare addosso il barbaro ad ogni curva del burrone. La gola si fece meno profonda e le pareti meno ripide. A destra e a sinistra sboccavano nella gola dei canaloni, mentre il fondo diventava pietroso e accidentato, costringendo Nistor a inerpicarsi tra rocce e cespugli. Infine, la gola si aprì completamente. Dopo aver scalato un piccolo pendio, il gundariano si trovò sul limite di un alto piano, circondato da montagne lontane. A un tiro d'arco davanti a lui, bianche come ossa sotto la luce della luna, sorgevano le mura di Larsha. Una porta massiccia si alzava proprio di fronte a lui. Il tempo aveva diroccato le mura e al di sopra della porta si vedevano tetti e torri semidistrutti. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Nistor si concesse una pausa. Larsha era ritenuta immensamente antica. Secondo i racconti, esisteva dai tempi del Cataclisma, quando gli antenati degli Zamorani, gli Zemri, avevano edificato un'isola di civiltà in un mare di barbarie. Racconti sulla morte che stava in agguato in mezzo a quelle rovine erano molto diffusi nei bazar di Shadizar. Nistor sapeva che non uno dei numerosi uomini che lungo la storia avevano frugato fra le rovine alla ricerca del tesoro di cui si favoleggiava era mai ritornato. Nessuno sapeva quali forme assumesse il pericolo, perché non c'era mai stato alcun superstite per raccontarlo. 10 anni prima il re Tiridates aveva inviato in pieno giorno nella città una compagnia dei suoi più coraggiosi soldati. Il re stesso li aveva aspettati fuori delle mura. Si erano sentiti grida e rumori di lotta, e poi più nulla. Gli uomini che aspettavano al di fuori erano fuggiti e Tiridates era stato costretto a seguirli. Quello era stato l'ultimo tentativo di svelare con la forza il mistero di Larsha. Sebbene Nistor provasse il desiderio di facile ricchezza comune a tutti i mercenari, non era un temerario. Gli anni che aveva passato come soldato nei regni tra Zamora e la sua terra natia gli avevano insegnato a essere cauto. Mentre, arrestatosi, soppesava i pericoli insiti nelle varie possibilità che gli stavano di fronte, una visione lo fece irrigidire. Vicino al muro, scorse una figura che si muoveva furtivamente verso la porta. Sebbene l'uomo fosse troppo lontano per riconoscerne il viso alla luce della luna, non c'erano dubbi su quel passo da pantera. Conan! Colto da una crescente furia, Nistor si mosse in avanti. Camminava rapidamente, tenendo fermo il fodero con la spada per impedire che tintinnasse. Ma per quanto si muovesse silenziosamente, gli orecchi sensibili del barbaro avvertirono la sua presenza. Conan si girò rapidamente e la spada uscì frusciando dal fodero. Poi, vedendo che lo seguiva un solo avversario, il cimmero si fermò. A mano che si avvicinava, Nistor cominciava a cogliere i connotati dell'avversario. Conan era alto quasi 2 metri e la sua logora tunica non nascondeva le dure linee dei muscoli. Una sacca di cuoio gli pendeva dalla spalla. Il viso, giovane, maturo, era sormontato da una chioma squadrata di folti capelli neri. Non una parola fu pronunciata. Nistor si fermò per prendere fiato e gettare il mantello di lato. In quell'istante Conan si scagliò su di lui. Due spade brillarono come folgori alla luce della luna. Il clangore delle lame infranse il silenzio sepolcrale. Nistor era dei due il più esperto, ma la maggiore lunghezza del braccio e l'accecante velocità dell'altro annullavano il suo vantaggio. L'attacco di Conan era elementare e irresistibile come un uragano. Parando astutamente i colpi, Nistor indietreggiò passo dopo passo. Sorvegliava attentamente il nemico, aspettando che il suo attacco perdesse vigore per la pura e semplice fatica. Ma il cimmero sembrava non sapere che cosa fosse la stanchezza. Con un rovescio, Nistor tagliò la tunica di Conan sopra il torace, ma non raggiunse la pelle. Con un ritorno accecante, la punta della spada di Conan graffiò la corazza dell'avversario, scavando un solco nel bronzo. Mentre Nistor indietreggiava sotto un altro furioso attacco, una pietra rotolò sotto il suo piede. Conan sferrò un terribile colpo sul collo del Gundariano. Se fosse andato a segno, la testa di Nistor sarebbe volata via dalle spalle, ma poiché Nistor incespicò, la botta colpì invece l'elmo crestato. Risuonò un pesante clangore. La lama morse il ferro e fece cadere a terra Nistor. Respirando profondamente, Conan si avvicinò con la spada pronta. Il suo avversario giaceva immobile e il sangue fluiva dall'elmo spaccato. La giovanile fiducia nella forza dei suoi colpi convinse Conan di aver ucciso l'antagonista. Rinfoderata la spada, ritornò verso la città degli antichi. Il cimmero si avvicinò alla porta. Questa consisteva di due massicci battenti, alti il doppio di un uomo, fatti di legname spesso un piede e rivestito di bronzo. Conan, con un grugnito, spinse i battenti, ma senza risultato. Con l'elsa della spada colpì allora il bronzo. Dal modo in cui la porta pendeva, Conan pensò che il legno dei battenti fosse marcio, ma il bronzo era troppo spesso per tagliarlo senza danneggiare il filo della lama. Del resto, c'era un modo più semplice. A 30 passi a nord della porta, la cima del muro era crollata e ora il bordo si trovava a meno di 6 metri dal suolo. Nello stesso punto, la pila di macerie accanto alla base del muro si innalzava fino a circa 2 metri dall'orlo sbreccato. Conan si avvicinò al varco, indietreggiò di alcuni passi e spiccò una corsa. Giunto sul mucchio di macerie, balzò in aria e si afferrò al bordo rotto del muro. Un grugnito, uno sforzo e una torsione e si trovò sul bordo, senza badare a graffi e abrasioni. Abbassò lo sguardo sulla città. Dentro il muro c'era uno spazio aperto, dove per secoli la vita vegetale aveva ingaggiato battaglia contro l'antica pavimentazione. Le lastre del selciato erano rotte e sollevate. Tra di esse si erano aperti il cammino erba, erbacce e alcuni alberi macilenti. Più in là giacevano le rovine di uno dei quartieri poveri della città. I tuguri, a un solo piano, costruiti con mattoni di fango, erano diventati ormai semplici tumuli di polvere. Al di là di essi, bianche alla luce della luna, Conan poté discernere, meglio conservate, le costruzioni di pietra, i templi, i palazzi e le case dei nobili e dei ricchi mercanti. Come in molte antiche rovine, gravava su quella città deserta un'aura di malvagità. Aguzzando gli orecchi, Conan si guardò a destra e a sinistra. Niente si muoveva. L'unico suono era il frinio degli insetti. Anche Conan aveva udito storie della maledizione che gravava sull'Arsha. Sebbene il soprannaturale risvegliasse nella sua anima di barbaro ataviche paure, si fece coraggio pensando che quando un essere soprannaturale assume una forma concreta può essere ferito o ucciso da armi materiali, proprio come un uomo o un mostro terreni. Non era arrivato così lontano per essere fermato nel suo tentativo di cercare il tesoro da uomini, bestie o demoni. Secondo i racconti, il mitico tesoro di L'Arsha doveva trovarsi nel palazzo reale. Afferrando fodero e spada con la mano sinistra, il giovane ladro si lasciò cadere all'interno del muro sconnesso. Un istante più tardi, si apriva il cammino tra le strade tortuose che portavano al centro della città. Non fece più rumore di un'ombra. Le rovine lo circondavano da ogni lato. Qua e là, la facciata di una casa era crollata nella strada, costringendo Conan ad aggirare o a saltare cumuli di mattoni rotti e di marmo. La luna gibbosa era alta nel cielo ora e inondava le rovine di una luce soprannaturale. Alla destra del cimmaro apparve un tempio in parte crollato, ma con il portico sostenuto da 4 massicce colonne di marmo ancora intatto. Dal bordo del tetto sporgeva una fila di simulacri di marmo, statue di mostri dei tempi che furono, mezzo demoni e mezzo bestie. Conan tentò di ricordare i frammenti di leggende che aveva udito nelle taverne e che parlavano dell'abbandono di Larsha. C'era qualcosa a proposito di una maledizione scagliata da un dio irato molti secoli prima per punire misfatti così truci che facevano sembrare virtù perfino i crimini e i vizi di Shadizar. Si diresse di nuovo verso il centro della città, ma d'improvviso fu colpito da qualcosa di strano. I suoi calzari tendevano ad aderire al lastrico sconnesso, come se questo fosse coperto di melassa. Quando sollevava il piede, udiva un leggero risucchio. Si chinò a tastare il suolo. Era rivestito di una pellicola di sostanza trasparente e vischiosa, ora quasi secca. Con la mano all'elsa, Conan si guardò attorno nel chiaro di luna, ma nessun suono giunse ai suoi orecchi. Riprese il cammino. Di nuovo, come li alzava, i sandali venivano risucchiati. Si fermò voltando la testa. Avrebbe giurato che un identico rumore provenisse da lontano. Per un istante pensò che fosse l'eco dei suoi stessi passi, ma aveva ormai superato il tempio in rovina e nessun muro poteva riflettere il suono che si ergeva intorno a lui. Di nuovo avanzò e di nuovo si fermò. Sentì ancora il risucchio, che questa volta non cessò nemmeno quando rimase perfettamente immobile. Anzi, si stava facendo più forte. I suoi orecchi sensibili lo localizzarono proprio di fronte a lui. Poiché non aveva visto nessun movimento nella strada davanti a sé, la fonte del rumore doveva trovarsi in una via laterale o all'interno di uno dei palazzi crollati. Il suono crebbe sino a diventare un indescrivibile brontolio e un sibilo. Perfino i nervi d'acciaio di Conan erano scossi per la tensione di vedere apparire da un momento all'altro la sorgente sconosciuta di quel rumore. Infine, da un angolo vicino, uscì una grossa massa scivolosa che appariva grigia e lebbrosa al chiaro di luna. Entrò nella strada e lentamente avanzò verso di lui, completamente silenziosa, salvo che per il rumore di risucchio del suo peculiare metodo di locomozione. Dalla sua estremità anteriore usciva un paio di sporgenze simili a corni, lunghe almeno 3 metri. Un secondo paio era posto più in basso. Le lunghe corna si chinavano da una parte e dall'altra, e Conan vide che alle estremità portavano degli occhi. La creatura era, in verità, una lumaca, del tutto simile alle innocue lumache di giardino che lasciano una scia di bava nei loro vagabondaggi notturni. Tuttavia questa era lunga 15 metri e larga al centro quanto era alto Conan. Inoltre si muoveva velocemente, come un uomo in corsa. Un fetido puzzo le fluttuava attorno. Momentaneamente paralizzato dallo stupore, Conan fissava l'enorme massa di carne molle che lo sovrastava. La lumaca emise un suono simile a un soffio, ma ingrandito molte volte. Spinto finalmente all'azione, il cimmero compì un balzo di lato. Mentre balzava, un getto di liquido guizzò nell'aria notturna e andò a cadere nel punto in cui si era trovato fino all'istante precedente. Alcune gocce gli colpirono la spalla. Bruciavano come braci. Conan si voltò e tornò indietro di corsa. Le sue lunghe gambe scattarono al chiaro di luna. Dovette di nuovo superare cumuli di macerie. Gli orecchi gli dicevano che la lumaca non era molto distante e forse stava guadagnando terreno su di lui. Conan non osava voltarsi indietro per accertarsene, per paura di inciampare in qualche frammento di marmo e cadere. In tal caso il mostro sarebbe stato su di lui prima che fosse riuscito a rimettersi in piedi. Di nuovo udì quel peculiare soffio. Conan balzò freneticamente di lato, mentre un altro getto di liquido saettava accanto a lui. Anche se fosse riuscito a precedere la lumaca in quella corsa fino alle mura della città, il prossimo colpo avrebbe probabilmente centrato il bersaglio. Conan girò dietro un angolo per mettere un ostacolo tra sé e la lumaca. Si avviò a precipizio per una stradina tortuosa, poi svoltò dietro un altro angolo. Sapeva di essersi perduto in un dedalo di strade, ma la cosa più importante era svoltare il più possibile per evitare che il suo inseguitore potesse indirizzare un altro schizzo su di lui. I suoni risucchianti e il puzzo indicavano che la lumaca non aveva perso le sue tracce. Una volta fermatosi a prendere fiato, si guardò indietro e vide apparire la lumaca dietro l'ultimo cantone che aveva svoltato. Continuò ad andare avanti, svoltando ora per una via e ora per un'altra, attraverso il labirinto dell'antica città. Si diceva che se non fosse riuscito a distanziare la lumaca, forse avrebbe potuto stancarla. Sapeva che un uomo può resistere più a lungo di qualsiasi animale in corsa sulle lunghe distanze, ma la lumaca sembrava instancabile. Qualcosa nelle rovine che stava superando gli parve familiare. Poi capì che era arrivato al tempio semidiroccato che aveva sorpassato prima di incontrare la lumaca. Diede una rapida occhiata e si accorse che la parte alta della costruzione poteva essere raggiunta con una vigorosa scalata. Conan saltò su un mucchio di macerie e raggiunse la cima del muro diroccato del tempio. Balzando di pietra in pietra, risalì fino a una sezione intatta che fronteggiava la strada. Si venne così a trovare su un tratto di tetto, dietro la fila dei demoni di marmo. Si avvicinò ad essi, camminando con circospezione per paura che il tetto semidistrutto crollasse sotto di lui ed evitando ogni apertura che rischiasse di farlo cadere nelle camere sottostanti. Il rumore e il puzzo della lumaca giungevano a lui dalla strada. Capì che aveva perso le sue tracce. Incerta sulla via da prendere, la creatura si era evidentemente fermata di fronte al tempio. Molto cautamente, perché era sicuro che la lumaca avrebbe potuto vederlo al chiaro di luna, Conan spiò la strada, nascondendosi dietro a una delle statue. La grande massa grigiastra, sulla cui pelle umidiccia risplendeva la luna, era sotto di lui. Gli occhi peduncolati ondeggiavano qua e là in cerca di preda. Sotto di essi, le corna più piccole si muovevano rapidamente avanti e indietro poco al di sopra del suolo, come se stessero annusando le orme del cimero. Conan era certo che la lumaca avrebbe ben presto individuato le sue tracce e non dubitava che fosse capace di scivolare sulle pareti dell'edificio con la stessa rapidità con la quale lui le aveva scalate. Accostò una mano a una delle statue. Un terrificante demone dal corpo umanoide, con ali di pipistrello e testa di rettile. E spinse! La statua dondolò appena con un lieve scricchiolio. A quel rumore le corna della lumaca si alzarono improvvisamente verso il tetto del tempio. La testa della bestia si girò e il corpo si piegò in una stretta curva. La testa si avvicinò alla facciata del tempio e cominciò a scivolare su una delle immense colonne, direttamente al di sotto del punto dove si nascondeva Conan. La spada, pensava Conan, poteva fare ben poco contro un simile mostro. Al pari delle altre forme di vita inferiori, era di certo capace di sopravvivere a ferite che avrebbero istantaneamente spacciato una creatura superiore. La testa della lumaca era già sopra la colonna e gli occhi peduncolati oscillavano avanti e indietro. A quel ritmo, la testa del mostro avrebbe raggiunto l'orlo del tetto mentre buona parte del suo corpo giaceva ancora nella strada sottostante. Poi Conan vide cosa doveva fare. Si spinse contro la statua. Con un possente sforzo la fece ruzzolare oltre il bordo del tetto. Invece dello schianto che una tale massa di marmo avrebbe normalmente sollevato andando a colpire il suolo, salì a lui il suono di un urto umido e molliccio, seguito da un pesante tonfo, quando la parte anteriore del corpo della lumaca ricadde a terra. Quando Conan arrischiò un'occhiata oltre il parapetto, vide che la statua era affondata quasi completamente nel corpo della lumaca. La grande massa grigiastra si contorceva e si agitava come fa un verme sull'amo del pescatore. Un colpo di coda fece tremare il tempio. All'interno qualche pietra smossa cadde con fracasso. Conan si chiese se l'intera struttura non stesse per crollare sotto di lui, seppellendolo tra le macerie. «Hai avuto il fatto tuo!» ringhiò il cimmero. Camminò lungo la fila di statue fino a trovarne una che si era allentata e che si trovava sulla verticale del corpo della lumaca. La statua ruzzolò giù, provocando un altro tonfo. Una terza statua mancò il bersaglio e si fracassò sul lastrico della strada. Conan poi sollevò di peso una quarta statua più piccola e con i muscoli che esplodevano a causa dello sforzo la scagliò sulla testa che ancora si agitava. Mentre le convulsioni della bestia diminuivano sempre più, Conan, per essere più sicuro, spinse giù altri due demoni di marmo. Poi, quando il corpo restò immobile, scese nella strada. Si avvicinò con circospezione alla grande massa fetida, tenendo la spada alzata. Alla fine, chiamato a raccolta tutto il proprio coraggio, colpì violentemente quella carne cedevole. Dalla pelle grigia e umida colò un umore nerastro e la massa fu squassata da un fremito. Ma sebbene alcune sue parti isolate fossero ancora vive, la lumaca, intesa come un tutt'unico, era morta. Mentre Conan stava ancora colpendo furiosamente, una voce lo fece voltare. La voce diceva: «Questa volta ti ho preso!» Era Nistor, che si avvicinava con la spada in mano e una benda macchiata di sangue attorno alla testa al posto dell'elmo. Il Gundariano si fermò alla vista della lumaca. «Per Mitra, che cos'è questa roba?» «È lo spettro che infestava l'Arsha», disse Conan parlando zamorano con accento barbaro. «Mi ha inseguito per mezza città prima che riuscissi a ucciderla». Mentre Nistor guardava incredulo la bestia, il cimmero continuò. «Che fai qui? Quante volte devo ucciderti per vederti morto?» «Adesso vedrai quanto sono morto», disse Nistor a denti stretti, alzando la spada in posizione di guardia. «Che cos'è successo ai tuoi soldati?» «Morti nella frana che hai provocato! Morti come lo sarai tu tra poco!» «Senti, stupido», disse Conan. «Perché sprecare le tue forze in un duello quando, a credere ai racconti, ci sono più ricchezze qua giù di quante non riusciremo a portare via in due? Tu sei un uomo che sa il fatto suo. Perché non ti unisci a me per rubare il tesoro di l'Arsha?» «Devo compiere il mio dovere e vendicare i miei uomini!» «Difenditi, cane di un barbaro!» «Per Crom, mi batterò se lo vuoi», urlò Conan brandendo la spada. «Ma pensaci, uomo! Se tornerai a Shadizar, ti crocifiggeranno per aver perso i tuoi uomini, anche se porterai loro la mia testa, cosa che non credo riuscirai a fare. Se un decimo delle storie che si raccontano sono vere, la tua parte di bottino sarà superiore ai guadagni di 100 anni di un capitano dei mercenari». Nistor aveva abbassato la spada e aveva fatto un passo indietro. Adesso stava muto, riflettendo profondamente. Conan aggiunse: «Inoltre, non riusciresti mai a trasformare in veri guerrieri quei vigliacchi di zamorani!» Il Gundariano trasse un sospiro e rinfoderò la spada. «Hai ragione, che tu sia dannato! Fino a che l'avventura non sarà terminata, combatteremo fianco a fianco e faremo parti uguali del bottino, eh?» Egli tese la mano. «Affare fatto!» disse Conan ringuainando la spada e stringendo la mano dell'altro. «Se dovessimo battercela e separarci, ci incontreremo alla fontana di Ninas.» Il palazzo reale di Larsha sorgeva nel centro della città, in mezzo a un'ampia piazza. Era l'unico edificio a non essere crollato con gli anni, e ciò per una semplice ragione. Era stato scavato nella roccia d'una collinetta che un tempo rompeva la monotonia della pianura su cui sorgeva Larsha. La costruzione dell'edificio era stata così meticolosa che solo un'ispezione accurata avrebbe potuto rivelare che non si trattava di una normale struttura composita. C'erano perfino linee incise nella nera superficie basaltica che imitavano le commessure tra le pietre da costruzione. Procedendo lentamente, Conan e Nistor spiarono nell'interno oscuro. «Ci servirebbe una luce!» disse Nistor. «Non ho nessuna voglia di imbattermi nel buio in un'altra di quelle lumache!» «Non sento odore di lumache!» disse Conan. «Ma il tesoro potrebbe avere qualche altro guardiano!» Tornò indietro e tagliò un piccolo pino che cresceva nel pavimento sconnesso. Poi ne mozzò i rami e ne fece piccoli pezzi. Ammucchiata qualche scheggia tagliata con la spada, accese un piccolo fuoco con selce e acciarino. Smozzicò un'estremità dei due pezzi, poi la accese. Il legno resinoso bruciava vigorosamente. Porse una torcia a Nistor. Poi ciascuno prese la sua parte di legni di riserva e se li infilò nella cintura. Quindi, con la spada sguainata, si avvicinarono di nuovo al palazzo. Superato il portico, la fiamma gialla e guizzante delle torce si rifletté sui levigati muri di pietra nera. A terra si era accumulato uno spesso strato di polvere. Molti pipistrelli appesi alle sculture del soffitto squittirono rabbiosamente e sfrecciarono via per raggiungere un'oscurità più profonda. Passarono tra statue dall'aspetto terrificante, collocate in nicchie sui due lati. Corridoi bui si aprivano su entrambi i fianchi. Attraversarono la sala del trono. Questo, intagliato nella pietra nera di cui era costituito l'edificio, era ancora in piedi. Altri seggi e divani fatti di legno erano crollati in polvere, lasciando sul pavimento un disordine di chiodi, ornamenti metallici e pietre dure. «Quel trono deve essere vuoto da millenni!» mormorò Nistor. Attraversarono numerose camere, che forse erano gli appartamenti privati del re, ma la scomparsa di ogni arredo deteriorabile rendeva impossibile dirlo. Si ritrovarono davanti a una porta. Conan vi avvicinò la torcia. Era una porta robusta, situata entro un arco di pietra e fatta di tronchi massicci, tenuti insieme da fasce di rame ora ricoperte di una patina verdastra. Conan l'assaggiò con la spada. La lama penetrò facilmente. Una piccola pioggia di frammenti polverosi, pallida alla luce della torcia, ricadde a terra. «E marcia!» brontolò Nistor assestando un calcio. Lo stivale entrò facilmente nel legno, quasi come la spada di Conan. Una borchia di rame cadde sul pavimento con un suono sordo. In un attimo abbatterono i battenti imputriditi in mezzo a una cascata di polvere di legno. Si curvarono, sollevando le torce sopra la testa per illuminare l'apertura. La luce, riflessa dall'argento, dall'oro e dai gioielli, colpì i loro occhi. Nistor si spinse attraverso la breccia, ma poi indietreggiò così rapidamente che andò a sbattere contro Conan. «Ci sono degli uomini là dentro!» bisbigliò. «Fammi vedere!» Conan infilò la testa nell'apertura e scrutò a destra e a sinistra. «Sono morti! Andiamo!» Una volta dentro, si guardarono attorno così a lungo che le torce finirono col bruciargli le dita. Dovettero accenderne altre due. Nell'interno della stanza, sette giganteschi guerrieri, alti almeno 2,5 metri, sedevano su varie sedie. Le teste erano rovesciate sullo schienale e le bocche pendevano aperte. Portavano decorazioni dei tempi antichi. Gli elmi di rame piumati e le corazze di piastre di rame erano verdi per l'antichità. La pelle era bruna e cerea, come quella delle mummie, e le barbe brizzolate arrivavano fino alla cintola. Alabarde e picche di rame erano appoggiate al muro accanto a loro o giacevano sul pavimento. Nel centro della stanza si ergeva un altare, di basalto nero come il resto del palazzo. Vicino all'altare, sul pavimento, dovevano esserci state numerose casse di tesori. Il legno era ormai marcio ed esse si erano aperte, lasciando che cumuli di gioielli splendenti si riversassero al suolo. Conan si avvicinò a uno dei guerrieri immobili e gli toccò la gamba con la punta della spada. Il corpo non accennò a muoversi. Mormorò: «Gli antichi devono averli mummificati, come si dice ancora facciano i preti della Stigia con i loro morti». Nistor guardò con inquietudine le sette forme immobili. Le deboli fiamme delle torce sembravano incapaci di respingere l'oscurità fino alle pareti scure e al soffitto della camera. Il blocco di pietra nera nel centro della camera gli arrivava fino alla cintola. Sulla larga superficie levigata, intarsiata in sottili strisce d'avorio, c'era una figura di cerchi e triangoli intrecciati. L'insieme formava una stella a sette punti. Gli spazi, vuoti tra le linee, contenevano simboli in una scrittura che Conan non conosceva. Sapeva leggere lo zamorano e un poco anche scriverlo, e aveva un'infarinatura di ircaniano e corintio, ma non era in grado di capire quei segni misteriosi. Ad ogni modo, le cose che stavano sull'altare lo interessavano maggiormente. Su ogni punta della stella, scintillante sotto la luce ondeggiante delle torce, c'era un gioiello verde, più grosso di un uovo di gallina. Al centro della figura c'era la statuetta verde di un serpente, con la testa eretta, che sembrava intagliata nella giada. Conan avvicinò la torcia ai sette grandi gioielli splendenti. «Io prendo questi!» grugnì. «Tu puoi prenderti il resto!» «No, niente affatto!» scattò Nistor. «Valgono più degli altri tesori di questa stanza messi insieme! Li prendo io!» La tensione ondeggiò tra i due uomini e le mani libere volarono all'else. Per un attimo rimasero silenziosi fissandosi. Poi Nistor disse: «Allora, dividiamoli, come eravamo d'accordo!» «Non si può dividere sette per due!» disse Conan. «Senti! Lanciamo in aria una di queste monete. Il vincitore si prenderà i sette gioielli e l'altro il resto del tesoro. Ti va bene?» Conan afferrò una moneta da uno dei mucchi che giacevano sparsi dove un tempo stavano le casse. Sebbene si fosse fatto una buona esperienza in fatto di numismatica nella sua carriera di ladro, questa gli era completamente sconosciuta. Su di un lato c'era un volto, ma non si capiva se fosse quello di un uomo, di un demone o di un gufo. L'altra faccia era ricoperta di simboli uguali a quelli che adornavano l'altare. Conan mostrò la moneta a Nistor. I due cacciatori di tesori brontolarono qualcosa in segno di assenso. Conan lanciò la moneta in aria, la prese al volo e se la batté sul polso sinistro. Poi, con la moneta sempre coperta, tese il polso verso Nistor. «Testa!» disse il Gundariano. Conan tolse la mano dalla moneta. Nistor la scrutò e brontolò: «Ishtar, maledica questa moneta! Hai vinto tu! Tieni la mia torcia un attimo!» Conan, attento a eventuali movimenti sospetti, prese la torcia. Ma Nistor aprì semplicemente la chiusura del suo mantello e lo stese sul pavimento polveroso. Cominciò a prendere manciate di oro e gemme dai mucchi che giacevano sul pavimento e a farne una pila sul mantello. «Non caricarti in modo da non poter più correre», disse Conan. «Non siamo ancora fuori di qui e c'è un lungo cammino fino a Shadizar». «Ce la farò», disse Nistor. Raccolse gli angoli del mantello, si appese alla schiena quel sacco improvvisato e stese la mano per prendere la torcia. Conan gliela porse e si avvicinò all'altare. Raccolse uno a uno i grandi gioielli verdi e li mise dentro la sacca di cuoio che gli pendeva dalle spalle. Quando li ebbe raccolti tutti e sette, si fermò a guardare il serpente di giada. «Questo frutterà un bel gruzzolo», disse. Afferratolo, lo mandò a raggiungere il resto del bottino. «Perché non prendi anche un po' dell'oro e dei gioielli rimasti?» chiese Nistor. «Io ho preso tutto quello che potevo trasportare». «Hai già preso tu la roba migliore», disse Conan. E poi non mi serve nient'altro. Amico, con questi posso comprarmi un regno, o una contea almeno, e tutto il vino che posso bere e le donne che... Un suono costrinse i predoni a voltarsi e a guardarsi intorno stupefatti. Accanto alle pareti, i sette guerrieri mummificati stavano ritornando in vita. Le teste si rialzarono, le bocche si chiusero e l'aria ritornò negli antichi polmoni avvizziti. Le loro articolazioni cigolarono come cardini arrugginiti mentre afferravano le picche e le alabarde e si rimettevano in piedi. «Corri!» urlò Nistor lanciando la torcia contro il gigante più vicino e sguainando la spada. La torcia colpì il gigante al petto, cadde al suolo e si spense. Avendo due mani libere, Conan mantenne la torcia mentre sguainava la spada. La luce guizzava debolmente sulle verdastre armature di rame mentre i giganti si avvicinavano ai due. Conan si abbassò velocemente per evitare il colpo di una alabarda e parò una picca che stava per colpirlo. Tra lui e la porta, Nistor lottava con un gigante che cercava di bloccar loro la fuga. Il Gundariano parò un affondo e sferrò un feroce rovescio sulla coscia del nemico. La lama penetrò, ma solo superficialmente. Era come spaccar legna. Il gigante barcollò e Nistor si volse verso un altro nemico. La punta di una picca rimbalzò sulla sua armatura ammaccata. Per fortuna, i giganti si muovevano lentamente, altrimenti i predoni sarebbero caduti al primo assalto. Saltando, scansandosi e ruotando, Conan riuscì a evitare colpi che lo avrebbero steso immobile al suolo se lo avessero raggiunto. Colpo dopo colpo, la sua lama feriva la secca carne legnosa degli assalitori. Fendenti che avrebbero decapitato un uomo riuscirono soltanto a far barcollare quelle creature d'altri tempi. Il cimmero assestò un colpo furioso alla mano di un attaccante, mutilandola e costringendolo ad abbandonare la picca. Schivò un'altra picca e radunò ogni sua forza per assestare un fendente alla caviglia del gigante. La lama penetrò fino a metà dell'osso e l'avversario si schiantò al suolo. «Fuori!» tuonò Conan, scavalcando il corpo caduto. Lui e Nistor corsero fuori dalla porta e attraversarono corridoi e camere. Per un istante Conan temette che si fossero perduti, ma poi colse uno sprazzo di luce sopra la sua testa. I due uscirono come saette dal porticato. Dietro di loro veniva il fracasso e i passi pesanti dei guardiani. In alto il cielo era impallidito e le stelle stavano scomparendo al sopraggiungere dell'alba. «Dirigiamoci al muro!» ansimò Nistor. «Penso che possiamo correre più veloci di loro!» Mentre raggiungevano l'altro lato della piazza, Conan gettò un'occhiata dietro di sé. «Guarda!» urlò. Ad uno, i giganti emergevano dal palazzo. E ad uno, colpiti dalla luce crescente, si abbattevano a terra e crollavano in polvere, lasciando sul suolo, in piccoli mucchi, gli elmetti piumati, le corazze a piastre di rame e tutto il resto delle loro bardature. «Bene, è finita», disse Nistor. «Ma come possiamo tornare a Shadizar senza essere arrestati? Quando vi arriveremo sarà pieno giorno». Conan sogghignò. «C'è un modo di entrare che solo i ladri conoscono. Vicino all'angolo nord del muro c'è un gruppo di alberi. Se frughi in mezzo ai cespugli che mascherano il muro, troverai una specie di condotto che credo serva a far uscire l'acqua dalla città durante le grandi piogge. Una volta era chiuso da una grata di ferro, ma adesso è corrosa. Se uno non è troppo grasso, può strisciarvi dentro e arrivare sino a una discarica dove gettano le macerie delle case demolite». «Bene!» disse Nistor. «Io...» Come Nistor fece per rimettersi in piedi, Conan lo afferrò per il braccio e lo trascinò verso il centro della piazza. Si era appena mosso quando crollò il muro dell'edificio più vicino, abbattendosi proprio nel punto dove i due stavano fino a poco prima. Ma anche il forte rumore si perse nel boato del terremoto. «Allontaniamoci di qui!» urlò Nistor. Guidandosi con la luna, che adesso era bassa nella parte occidentale del cielo, i due corsero a zigzag per le strade. Sui due lati, muri e colonne si inclinavano, tremavano e si fracassavano al suolo. Il rumore era assordante. Nuvole di polvere si sollevarono, soffocando i fuggitivi. Conan si arrestò con una scivolata e spiccò un salto all'indietro per evitare di finire sfracellato sotto il crollo della facciata di un tempio. Barcollò mentre nuove vibrazioni scuotevano la terra sotto di lui. Si arrampicò su cumuli di rovine, alcune vecchie e altre recenti. Balzò via furiosamente per sottrarsi a un capitello che stava crollando. Frammenti di pietra e mattoni caddero su di lui. Uno gli fece un taglio sulla guancia. Un altro lo colpì al calcagno, facendogli maledire gli dèi di tutti i paesi che aveva visitato. Infine, raggiunse il muro della città. Ormai non era più un muro, dato che le scosse lo avevano trasformato in una montagna di pietre rotte. Zoppicando, tossendo e ansimando, Conan si arrampicò sopra il muro e si voltò a guardare. Nistor non era più con lui. Probabilmente, pensò Conan, il Gunderiano era rimasto intrappolato nel crollo di qualche edificio. Conan ascoltò, ma non sentì nessuna invocazione di aiuto. Il rombo del terremoto e dei crolli si affievoliva. La luce della luna bassa nel cielo illuminava la grande nube polverosa che si stendeva sulla città. Poi si alzò una brezza mattutina che lentamente spazzò via la polvere. Seduto in cima al mucchio di rovine che indicavano il punto dove una volta sorgeva il muro, Conan si soffermò a guardare l'arscia. La città aveva un aspetto completamente diverso da quello che aveva quando vi era entrato. Non un solo edificio era rimasto in piedi. Perfino il palazzo monolitico di basalto nero, dove lui e Nistor avevano trovato il tesoro, adesso era un mucchio di blocchi fracassati. Conan rinunciò al pensiero di ritornare nel palazzo in qualche futura occasione per raccogliere il resto del tesoro. Ci sarebbe voluta un'intera squadra di uomini per smuovere le macerie e recuperare i preziosi. Tutta l'arscia era ridotta a cumuli di macerie. Fin dove giungeva il suo sguardo, sotto la luna crescente, non scorse nulla di animato nella città. L'unico suono era dato dalla caduta di qualche ultima pietra. Conan tastò la sacca per essere sicuro che fosse ancora piena e si voltò verso ovest, in direzione di Shadizar. I raggi del sole nascente dietro di lui illuminarono con uno sprazzo di luce la sua ampia schiena. Quella sera Conan entrò nella taverna preferita, quella di Abuletes, nel quartiere malfamato. La bassa stanza, macchiata di fumo, sapeva di sudore e di vino inacidito. Ai tavoli affollati, ladri e assassini bevevano vino e birra, giocavano a dadi, discutevano, cantavano, si azzuffavano e urlavano. Laggiù una serata era considerata monotona se almeno un cliente non finiva accoltellato in una rissa. All'altro capo della stanza, Conan vide la sua amata del momento, che beveva sola a un piccolo tavolo. Era Seramide, una donna bruna e di corporatura vigorosa, di parecchi anni più vecchia del cimero. «Ehi, Seramide!» tuonò Conan facendosi largo. «Ho qualcosa da mostrarti! Abuletes, un boccale del tuo migliore chiriano! Sono fortunato stanotte!» Se Conan fosse stato più vecchio, la prudenza gli avrebbe suggerito di non vantarsi mai apertamente del suo bottino e soprattutto di non metterlo mai in mostra. Invece avanzò a grandi passi fino al tavolo di Seramide e rovesciò su di esso il sacco di cuoio contenente le 7 grandi gemme verdi. I gioielli uscirono dalla borsa come una cascata, sbatterono contro la superficie umida di vino del tavolo e si sbriciolarono istantaneamente in una sottile polvere verde che sfavillava alla luce delle candele. Conan lasciò cadere il sacco e rimase a bocca aperta, mentre gli avventori più vicini scoppiavano in rauche risate. «Per Crom e Manannan!» soffiò infine Conan. «Questa volta, a quanto pare, mi sono ingannato con le mie stesse mani!» Poi si ricordò del serpente di giada ancora nella borsa. Comunque, ho ancora qualcosa che basterà per qualche buona bevuta. Mossa dalla curiosità, Seramide afferrò il sacco che stava sul tavolo. Poi lo lasciò cadere con uno strillo. È vivo! Urlò. Cosa? Cominciò Conan, ma un urlo proveniente dalla porta lo fermò. È qui, uomini! Prendetelo! Un grasso magistrato era entrato nella taverna, seguito da alcuni uomini della ronda di notte armati di alabarda. Gli altri avventori si zittirono, fissando stentamente l'aria, come se non avessero mai visto né Conan né le altre canaglie ospiti di Abuletes. Il magistrato si spinse al tavolo di Conan. Sguainando la spada, il cimmero si mise con la schiena contro il muro. I suoi occhi azzurri mandavano bagliori pericolosi. Sui denti brillò la luce delle candele. «Prendetemi, se ci riuscite, cani!» urlò. «Non ho fatto niente contro le vostre stupide leggi!» Poi, storcendo la bocca, mormorò a Seramide. «Afferra la borsa ed esci di qui, se quelli mi prendono è tua!» «Mi fa paura!» bisbigliò la donna. «Ho ho!» ridacchiò il magistrato venendo avanti. «Niente, eh? Niente salvo derubare fino all'osso i nostri migliori cittadini! Abbiamo prove sufficienti per mozzarti la testa più di 100 volte!» E poi hai trucidato i soldati di Nistor e lo hai persuaso a unirsi a te per una razzia tra le rovine di Larsha. Lo abbiamo trovato alle prime luci della sera ubriaco, intento a vantarsi della sua azione. Quel furfante ci è sfuggito, ma tu non ci riuscirai! Mentre gli uomini della ronda formavano un mezzo cerchio attorno a Conan con le alabarde puntate contro il suo petto, il magistrato scorse il sacco sul tavolo. «Che cos'è questo? Il tuo ultimo bottino? Bene, vediamo!» Il grassone infilò una mano dentro al sacco. Vi frugò per un istante, poi i suoi occhi si dilatarono e la bocca spalancata emise un urlo spaventoso. «Ah!» Ritrasse la mano dalla borsa. Un serpente verde, come la giada, vivo e sussultante, era attorcigliato attorno al polso del magistrato e affondava i denti velenosi nella sua mano. Si levarono urla di orrore e di stupore. Un uomo della ronda balzò indietro e cadde su un tavolo, fracassando boccali e rovesciando bevande. Un altro si lanciò in avanti per afferrare il magistrato che barcollava e stava per cadere. Un terzo lasciò andare la alabarda e, urlando istericamente, balzò fuori dalla porta. Il panico colse gli avventori. Alcuni si pigiavano sulla porta lottando per uscire. Due cominciarono a combattere a colpi di coltello, mentre un altro ladro, avvinghiato a una guardia, rotolava sul pavimento. Una delle candele si rovesciò, poi un'altra, e la stanza fu illuminata debolmente solo dalla lampada di terraglia che stava sul banco. Al buio Conan afferrò il polso di Seramide e la tirò su. Con il piatto della spada spinse di lato la folla colta dal panico e si aprì un varco attraverso la ressa fino alla porta. I due fuggirono nella notte, svoltando numerosi angoli per disperdere eventuali inseguitori. Poi si fermarono a riprendere fiato. Conan disse: «Questa città diventerà maledettamente calda per me adesso. Mi rimetto in cammino. Arrivederci, Seramide». «Non vuoi passare un'ultima notte con me?» «Questa volta no. Devo cercare di acchiappare quella canaglia di Nistor. Se l'idiota non avesse spifferato tutto, la legge non sarebbe arrivata sulle mie tracce così rapidamente. Lui ha con sé tutti i tesori che un uomo può trasportare, mentre io sono finito con nulla in pugno. Forse riuscirò a persuaderlo a darmene metà. Se no...» Passò il pollice sul filo della spada. Seramide sospirò. «Ci sarà sempre un nascondiglio per te qui a Shadizar finché io vivrò. Dammi un ultimo bacio.» Si abbracciarono brevemente. Poi Conan se ne andò come un'ombra nella notte. Sulla strada per Corintia, che da Shadizar portava a ovest, a 3 tiri d'arco dalle mura della città, sta la fontana di Ninas. La storia dice che Ninas era un ricco mercante sofferente di una malattia che lo consumava. Un dio gli apparve in sogno, promettendogli di guarirlo se avesse costruito una fontana sulla strada che da Shadizar conduce a ovest, così che i viaggiatori potessero lavarsi e spegnere la sete prima di entrare in città. Ninas costruì la fontana, ma i racconti non dicono se recuperò la salute. Mezz'ora dopo essere fuggito dalla taverna di Abuletes, Conan trovò Nistor seduto sul bordo della fontana di Ninas. «Come te la sei spassata con quelle impareggiabili 7 gemme?» chiese Nistor. Conan raccontò cos'era accaduto alla sua parte di bottino. «Ora», disse, «poiché grazie alla tua lingua sfrenata ho dovuto lasciare Shadizar e non ho più nulla del tesoro, sarebbe onesto da parte tua dividere con me ciò che hai ancora». Nistor fece una risata senza allegria. «La mia parte, ragazzo! Eccoti la metà di quello che mi resta!» Prese dalla cintura 2 pezzi d'oro e ne lanciò uno a Conan, che l'afferrò. «Te lo devo per avermi spinto via dal crollo di quel muro!» «Che cosa ti è successo?» «Quando la ronda mi ha messo con le spalle al muro nella taverna, ho rovesciato un tavolo sui soldati. Poi ho afferrato i preziosi che stavano nel mio mantello e me li sono issati sulla schiena e sono corso alla porta. Ne ho ferito uno che cercava di fermarmi, ma un altro è riuscito a colpirmi il mantello. Subito l'intera massa di oro e gioielli si è rovesciata sul pavimento e tutti, guardie, magistrato e avventori, hanno fatto a gara per impossessarsene». Alzò il mantello per mostrare lo squarcio lungo 2 piedi che fendeva il tessuto. «Pensando che il tesoro non mi sarebbe servito a nulla se la mia testa fosse andata ad adornare uno spalto della porta occidentale, me ne andai finché la fuga era ancora possibile. Quando mi trovai fuori dalla città, guardai nel mantello, ma tutto quello che vi ho trovato sono queste 2 monete, nascoste in una piega. Prendine pure una». Conan rimase accigliato per un momento. Poi la sua bocca si torse in un sogghigno, in gola gli risuonò una bassa risata. Rovesciò la testa all'indietro e scoppiò in una tonante sghignazzata. «Ah, siamo proprio 2 bravi cercatori di tesori! Per Crom, quanto si sono divertiti gli dèi con noi! Che beffa!» Nistor sorrise di sbieco. «Mi fa piacere vedere che ti diverti, ma dopo l'accaduto non penso che Shadizar tiri aria buona per noi». «Dove sei diretto?» chiese Conan. «A est, per cercare un ingaggio come mercenario nel Turan. Si dice che il re Ildis assuma dei combattenti per trasformare in un vero esercito la sua orda sbrindellata. Perché non vieni con me, ragazzo? Sei tagliato per fare il soldato». Conan scosse la testa. «Non fa per me marciare avanti e indietro tutto il giorno durante l'addestramento, mentre qualche zuccone di ufficiale sbraita «Avanti marsh, presentat arm!» Ho sentito che si possono fare dei buoni colpi all'ovest. Proverò per un po'». «Allora, possano i tuoi barbari dei accompagnarti», disse Nistor. «Se cambi idea, chiedi di me nei baraccamenti di Agarpur. Addio!» «Addio», rispose Conan. E senza aggiungere altro, imboccò la strada per la Corintia. E ben presto scomparve alla vista nella notte. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare Conan, il palazzo dei morti.